In questo mondo esistono delle cose percepibili e intercettibili. Noi vediamo la luce, o meglio, la luce colpisce i nostri occhi, ma non vediamo i raggi ultravioletti. Noi udiamo dei suoni, ma non udiamo gli ultrasuoni. Noi vediamo la materia, ma non vediamo l'atomo. Sarebbe veramente stupido sostenere che non esistono i raggi ultravioletti, gli ultrasuoni o l'atomo solo perché non sono percepibili ai nostri sensi. Munendoci degli appositi strumenti possiamo verificare la loro esistenza. Perciò, se possiamo dire che esistono i raggi ultravioletti, gli ultrasuoni e l'atomo è perché ci avvaliamo di strumenti adatti ai nostri cinque sensi, e se dicessimo che non esistono queste cose, staremmo solo facendo confessione di una nostra mancanza, di un limite del quale siamo miseramente soggetti. Così è pure nel campo spirituale. Il cristianesimo è l'unica fede che basa la sua credibilità su fatti storici come l'incarnazione di Cristo, la sua vita santa e la sua resurrezione. Ma è altresì un messaggio che ordina all'uomo di credere in cose che sono impercettibili ai cinque sensi di cui è dotato. Mentre l'aspetto storico, non essendo creduto, rende l'incredulo palesemente stolto agli occhi di chiunque, secondo l'opinione di alcuni, negare l'aspetto spirituale sarebbe sensato, perché non ci sarebbero delle prove per dimostrarlo. Ma come abbiamo considerato, negare degli aspetti spirituali solo perché non sono percepibili ai nostri cinque sensi non è un atteggiamento saggio. Non è saggio perché molte realtà esistono fuori dalla nostra percezione. Non è saggio perché basterebbe usare gli strumenti adatti per verificare ciò che dice la parola di Dio. Quindi, l'ostinata testardaggine che spinge a negare il non evidente e il non riscontrabile non rientra nell'obiettività di un ragionamento onesto e di un cuore puro. Se con la nostra razionalità siamo in grado di produrre opere grandiose simili a quelle del Creatore, con la stessa razionalità dobbiamo anche accettare quelle realtà che appartengono ad un mondo che non è subito percepibile ai nostri cinque sensi, un mondo che deve essere indagato e scoperto perché, come siamo rimasti allibiti, scoprendo che il nostro sistema solare è solo uno dei migliaia esistenti, così rimaniamo sbigottiti. Quando scopriamo che l'impercepibile appartiene ad una realtà di gran lunga maggiore di ciò che è percepibile. L'Apostolo Paolo ha parlato molto delle cose impercettibili anche perché in merito alla sofferenza esperienza questa percepibile dei cinque sensi disse infatti la nostra leggera afflizione che è solo per un momento produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. 2 Corinzi 4:17-18. La sofferenza, l'esperienza più conosciuta e realizzata da ogni creatura umana, produce nello spirito dell'uomo un anelito a ciò che non è percepibile dai cinque sensi. Difficile spiegarne la ragione, anche se nell'uomo vi è il senso dell'eternità, ma molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che lo spirito dell'uomo cerca qualcosa di duraturo e di migliore. In questo senso la sofferenza è una grazia e non una disgrazia. Proprio perché la sofferenza produce una brama in cose che non si vedono. Il credente con un atto di volontà fissa l'impercettibile anziché il percepibile. Perché ciò che non si vede ha un valore eterno, mentre ciò che è percepibile è limitato e destinato a scomparire. Questa verità, se presa sul serio, può letteralmente cambiare la visione e la vita di una persona. È indiscutibile il fatto che tutti siamo inclinati ad occuparci di ciò che vediamo e sentiamo. È fuor di dubbio che gli intenti maggiori dell'uomo sono quelli di procurarsi denaro, benessere, fama, gloria, onori. Vi sono persone che per procurarsi un certo benessere hanno speso ogni energia della loro vita, mentre altre hanno perso la vita per non dire l'anima. Eppure tutto ciò che appartiene a questo mondo materiale, tutto ciò che vediamo e sentiamo, è destinato a scomparire. E se anche non fosse vero, se ciò che dice il cristianesimo fosse una bufala, resta il fatto che il percettibile scompare lo stesso perché con la nostra morte niente di questo mondo è più in relazione con noi. Perché dare più valore alle cose che percepiamo con i nostri cinque sensi quando questi sono limitati? Perché siamo così insensati di dare precedenza alle cose terrene quando sappiamo benissimo di doverle lasciare? Perché non rivolgersi a ciò che è impercettibile ma duraturo ed eterno. Che cosa ci rende così insensati? Non credo che sia una questione di conoscenza, ma piuttosto di cuore. Solo Dio conosce l'abisso inesplorabile del cuore all'uomo. Chi ama Dio più di se stesso lo trova. Proprio perché ciò che non si vede è eterno, la fede del cristianesimo si mostra come la religione più sensata e appropriata all'uomo. Colui che è diventato figlio di Dio usa le cose di questo mondo. Ha una fede pratica che si esprime concretamente nella realtà, ma ad ogni istante egli ricorda a se stesso che i veri valori non si vedono. Così la fede, la speranza e l'amore sono virtù che egli eserciterà in ogni istante e in ogni occasione. Per i cristiani i frutti dello Spirito, quali l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la gentilezza, la bontà, la fede, la mansuetudine e l'autocontrollo, saranno più preziosi di ogni bene terreno. Questo spiega perché il credente sarà più attento a come vive le situazioni più che evitarle quando esse sono sgradevoli, o cercarle se sono piacevoli. L'intento di chi teme Dio non sarà tanto rivolto a realizzare gli obiettivi della propria vita, non consisterà nel ricercare in tutti i modi che le cose vadano secondo il suo punto di vista, il suo scopo non sarà quello di non soffrire. Ma il suo atteggiamento sarà quello di onorare, sia nella vita che nella morte, il suo Salvatore, realizzando le virtù che producono un frutto eterno. E queste virtù non si vedono. È molto difficile vedere la pazienza in chi vive per scelta accanto ad una persona non amabile. È difficile vedere atti di amore nei confronti di chi odia. Le relazioni umane sono cosparse di adulteri, di fornicazioni, di impurità, di dissolutezza, di idolatria, di magia, di inimicizie, di contese, di gelosie, di ire, di risse, di divisioni, di sette, cose queste destinate a scomparire, mentre le azioni e reazioni divine, impercettibili, sono eterne e non si vedono. Ecco perché la vita cristiana è principalmente una vita nascosta in Cristo, Colossesi 3:3. Dando valore a ciò che è impercettibile, il cristiano trova che per lui non vi sono situazioni più o meno importanti, ma dirà con l'Apostolo Paolo, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Filippesi 1:20. Colui che intende onorare Cristo in una certa situazione perché tra l'altro ne va di mezzo la sua reputazione e vive tutta la giornata con un cuore pieno di amarezza, con un atteggiamento ingrato nei confronti di chi vive accanto e non ha autocontrollo nel parlare, è saggio per un momento, ma stupido per tutta la giornata. La vita cristiana non è una corsa a ostacoli dove l'obiettivo è quello di riuscire a superare di tanto in tanto delle difficoltà, ma un percorso dove ogni passo è posato sulle promesse impercettibili di Cristo. Abbiamo detto che vi sono cose che non si vedono e non si sentono, ma che con gli strumenti adatti è possibile vedere e sentire. Così è nel campo della fede. La fede, la speranza e l'amore sono certamente virtù impercettibili perché non si vedono e non si sentono, ma ne possiamo cogliere i loro frutti. Quando leggiamo nella parola di Dio che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, essa voleva proprio dire questo. Con questa definizione della fede, l'autore della lettera agli Ebrei riconosce che vi sono sì cose che si aspettano anche se non si vedono, ma non sono estranee ai nostri cinque sensi. Mediante la fede si ha la certezza delle promesse e la manifestazione di ciò che è impercettibile. Noè costruì l'arca nonostante non fosse mai piovuto, Sara partorì quando umanamente non era in grado di farlo, Maria partorì Gesù senza il concorso umano. Nessuno ha visto la fede di queste persone perché essa non si vede, ma tutti ne possiamo cogliere le conseguenze. Nello stesso modo nessuno vede la fede, l'amore e la speranza di un figlio di Dio. Ma la sua vita di sottomissione a Cristo rivela l'impercettibile. Anche Dio non si vede. Ma l'Evangelista Giovanni, rivolgendosi a coloro che hanno posto fede in Gesù, scrisse: «Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi». 1 Giovanni 4:12. Come dire, è vero che Dio non si vede, ma l'amore esistente tra coloro che appartengono a Cristo rivela l'impercettibile perché non è possibile amare e amarsi se ciò non viene dato da alto. Dunque, esistono realtà che sfuggono ai nostri cinque sensi, ma al loro presente noi abbiamo manifestazione. Proprio per questo l'autore della lettera agli Ebrei scrive in merito alla creazione: per fede sappiamo che i mondi furono formati da una parola di Dio, sicché dall'invisibile è derivato il visibile. Ebrei 11, 4. E, come dire, una statua mi rivela lo scultore che non ho mai la possibilità di percepire l'impercettibile mediante la vista. Dunque, se il mondo vero e duraturo è quello occulto ai nostri cinque sensi, dobbiamo dare all'impercettibile il posto che Dio gli ha dato, dobbiamo avere un animo attento a ciò che non si vede. Soprattutto valorizzare il periodo della preghiera in segreto. Esso non si vede, non si sente, sembra un periodo infruttuoso, inutile, tempo perso, non è appariscente né attraente, ma rimane uno degli aspetti più importanti dell'impercettibile regno di Dio. La fede nell'invisibile porta il cristiano a ritenere i piaceri di questa vita sì utili e doni di Dio, ma altresì paragonabili a tanta spazzatura se confrontati con le realtà celesti. È vero che chi compie il male a volte progredisce, che il malvagio spesso ottiene ciò che vuole, che al momento l'ingiustizia apparentemente trionfa, ma alla resa dei conti, ciò che ora è intercettibile sarà percepibile non solo in parte, ma bensì nella totale realtà. Settembre 2005, Sidio, Ellero,